Italia in controluce. Buona mattina, parte una nuova settimana di Italia in controluce. In studio vi parla Daniele Biacchessi. Oggi 23 maggio è l'anniversario della strage di Capaci, 23 maggio 1992, Capaci, Isola delle Femmine, la strage con cui la mafia puntò al cuore dello Stato, il giorno in cui la mafia uccise Giovanni Falcone e Francesca Morvillo, gli uomini della loro scorta. In questi anni si sono assicurati alla giustizia gli esecutori materiali, ma restano ancora nell'ombra i certi mandanti della strage di Capaci, di quella di Via D'Amelio dove perse la vita Paolo Borsellino e di quelle del 93 di Via dei Giorgofili, Via Palestro, Roma, Via Fauro. Nino Amadore ha intervistato per Italia in controluce il magistrato Luca Tescaroli, autore di Obiettivo Falcone, un libro edito da Rubattino. Ci racconta il libro quelle che sono le verità raggiunte, verità estremamente significative e che sono convinto che la più parte dei cittadini non conosce, anche a seguito di un'informazione che mi appare colpevole, proiettata su basi distruttive, rappresentando scenari investigativi, scenari processuali, i quali i risultati raggiunti sarebbero stati rasi al suo. Allora, il suo mi sembra l'elogio della concretezza, che condivido francamente, cioè quello in questi casi va tenuto conto di processi, di fatti, di prove, di cose dimostrate, ma resta comunque negli ultimi anni tutto un susseguirsi di ipotesi e di piste anche investigative che hanno portato anche all'emissione di provvedimenti, insomma come se Cosa Nostra anche nel caso Falcone, anche nel caso della Daura, si fosse stata una mera esecutrice, un braccio armato per obiettivi e fini di altra natura. Lei che idea si è fatta? Guardi, io le dico questo, che Cosa Nostra non è mai stata un braccio armato utilizzato da altri. Cosa Nostra organizza, delibera, riesce a ideare dei delitti, degli omicidi eccellenti ed esegue i delitti con la propria straordinaria forza criminale, e per alcuni delitti eccellenti si sono registrati degli interessi convergenti di Cosa Nostra con altri soggetti appartenenti ad essa esterna e appartenenti al mondo imprenditoriale, finanziario, economico, istituzionale, dei servizi segreti deviati. Quindi non è un braccio di altri, ma è una entità in sé con una propria volontà strategica, politico-strategica, che agisce d'intesa e che ha agito d'intesa con soggetti ad essa esterni. Punto però, ed è anche questo un dato di fatto, che gli accertamenti, le investigazioni in questa direzione non hanno mai consentito sino ad oggi purtroppo di raggiungere risultati positivi. Si è raggiunta una parte significativa della verità, ma una porzione rimane ancora avvolta dal mistero. Speriamo che possa dare un volto ai cosiddetti committenti a volto coperto e che si possa dare risposta a dei perché che ancora sono sottesi a quell'agire criminale. Si è parlato anche di una trattativa precedente all'attentato di Capaci, cioè lei crede in questa ipotesi delle varie trattative? Io come magistrato devo credere a quello che i processi, le sentenze passate in giudicato possono dimostrare e che dimostra, e ciò che è emerso dalle sentenze relative alla strage di Capaci e alle sentenze relative agli attentati nel continente è che delle trattative vi furono e che i boss ricevettero segnali istituzionali che nella loro prospettiva erano una prova della bontà della strategia e della necessità di adoperarsi per avere nuovi referenti nelle istituzioni, ed è un punto di arrivo questo delle sentenze, dei processi, e deve rappresentare al tempo stesso anche un punto di partenza, perché è questo lo scenario nel quale potrebbero individuarsi ulteriori responsabilità a livello ideativo dello stragismo nel quale si inserì la strage di Capaci. E come ogni lunedì a quest'ora c'è Piera Ceci con Scuola in Controluce. Scuola in controluce. I supplenti non ricevono lo stipendio da mesi e allora l'Istituto d'Arte Modigliani di Giussano in Brianza ha deciso, con il consenso di genitori e studenti, prendiamo i soldi dal contributo volontario delle famiglie. Una decisione sofferta ma necessaria, come ci racconta il dirigente scolastico Cesare Fidia Ferrari. Noi avanziamo circa 270.000 euro dallo Stato. Lo Stato vi deve 270.000 esatto. euro. Sono contributi che non arrivano da ormai dal 2006, si immagini lei. Ora, e quindi che cosa è successo nella sua scuola? Che voi non avete più i soldi per pagare? In particolare è successo questo, che il vecchio consiglio d'istituto aveva deliberato che non anticipavamo più nulla, no? Che non anticipavamo più soldi in attesa che il ministero si mandasse quello che ci doveva mandare. Perché capito? Normalmente gli insegnanti precari, insomma, esatto, i supplenti temporanei vengono pagati dalla scuola, poi a un certo punto lo Stato restituisce i soldi, perché sanno benissimo quello che è. Noi abbiamo scritto al ministero dicendo che guardate, noi non possiamo più pagare perché i fondi sono finiti e non ce li date, non possiamo più pagare gli insegnanti temporanei. La risposta? No. La risposta è stata che laconica, dicendo vabbè, passerò tutto a chi di dovere, non abbiamo sentito più nulla. Ora, siccome i fondi che avevamo lì abbiamo terminati e il consiglio d'istituto, quello vecchio, aveva deliberato che non si anticipava nulla, in consiglio d'istituto ne abbiamo ridiscusso e il consiglio d'istituto ha detto vabbè, anticipiamo almeno un po', un qualcosa in modo tale da non lasciare questa gente senza stipendio, senza insomma, uno ha diritto, lavora, ha diritto ad essere pagato. E direi. Allora niente, per cui il Consiglio ha deliberato di anticipare un mese a questi insegnanti, però rimangono ancora i mesi successivi. Perché tutto questi supplenti comunque stanno lavorando. Lavorano, insomma. Perché no? Certo che lavorano. E perché anche i genitori hanno detto sì al pagamento di questi stipendi? Anche per assicurarsi che continuino a lavorare, perché il pericolo è anche che a un certo punto smettano. Dice, giustamente. Non mi paghi, che faccio? Capito? Per non mettere in crisi la scuola, per quando non sono molti da noi, per fortuna sono una decina, per cui è tutto lì, per cui si è presa questa decisione di anticipare ancora una volta un pezzettino, attendendo che il ministero ci dia i fondi. Preside, quanto è arrabbiato lei? Io non sono arrabbiato, sono, come si può dire, sono demoralizzato, mi sento a disagio per una cosa del genere, capisce? Sono demoralizzato per vedendo come tutti si dimenticano che la scuola deve funzionare, può funzionare solo in un certo modo, la scuola in genere, a livello nazionale, capisce? Non si può solo pensare a fare i tagli, a decurtare e poi insomma, noi avanziamo davvero tanti soldi anticipati dal 2006 in poi. La prima edizione di Italia in Controluce termina qui, torniamo oggi alle 13.30 su Radio 24.